dici? Se non mi sai dire niente tu, so benissimo che devo andare da un altro. Io penso che qualsiasi dentro l'ospedale, ce lo fa uno dentro l'ospedale, che si prende lo stipendio e in più usa l'ospedale per fare così come gli studi. 160 euro. Poi devo ritornare di nuovo dal reumatologo per vedere il responso, capito? E sono altri 100 euro. C'è una cosa che non finisce più. Che ladri che sono, tutto il caso di libro, ladri, prendo lo stesso dalla parola. Non è possibile perché uno debba curarsi, ragazzi, debba spendere un matrimonio. E se uno non ne ha, come fa? Non si può curare. Incredibile. E tu, Giulio, buone notizie da darmi, c'hai? Sì, io credo che questa settimana prossima devo andare a fare l'inizio della cura di prevenzione. Ecco. Vabbè, ma è tutto ok? Sì, beh, certo, questo sì. Però bisogna appunto fare questa cura di prevenzione in modo che non si riformi niente, capito? Devi fare cure pesanti. No, devo fare dei lavaggi praticamente alla vescica, dei lavaggi. Si chiamano ispirazioni e poi si chiamano ispirazioni e vescicali. A proposito di vescica, io c'ho il cane che ha preso praticamente, si è preso un'infezione. Una cistite e sta sempre colando sangue. L'ho portato al veterinario, gli hanno fatto l'ecografia, a quanto pare non c'è niente, c'è solo un'infiammazione che sto curando con gli antibiotici, però sta sempre colando. Io gli ho ritelefonato e mi ho detto va bene, parliamo lunedì, vabbè, lunedì però Lugani intanto deve morire di sanguato, cazzo sta ammazzo. Trova da un altro veterinario, si saprà dire qualcosa anche lui, cosa mi dica. E così io una volta alla settimana devo fare questa applicazione adesso per 6 volte, perché se è fuori si vedrà. Vabbè, giù si fa, no dai, non è quello il problema. Interessante che sei tranquillo. Sì, no. Fisicamente io mi sento bene, la verità, no? Quello sì. Però, come se serve un puma e un però. Per cui questa cura preventiva la devo fare per forza. Anche per non rischiare, insomma, ecco. Sperando che poi a fin fine tutto si sistemi e chi lo sa, già, siamo le mani di Dio. Cosa dovrà fare? Dai, non ci pensare, dai. Io risolvo tutto, dai. E io con questo femore non so più cosa fare. Adesso, oltre a quello, c'ho l'occhio che praticamente sono andato a fare la visita acustica perché vedevo tipo gli oscillini, tipo dei capelli che mi passavano davanti. Avevo fatto la visita un mese fa e non ci avevo più. Adesso ho fatto la visita, c'è la retina che ha dei problemi e mi ha mandato da un altro oculista, anche quello, perché c'è un macchinario particolare e devo fare prima la visita a quell'oculista e pagare da quell'oculista. Ho fatto già quella lì e ho pagato 50 euro. Poi devo fare quella dall'altro oculista e poi ritornare dal mio oculista per vedere il responso e sono altri 50 euro. Cioè, dimmi tu, uno cosa deve fare? Cosa deve fare? Ci vuole un mitra, ci vuole, ragazzi, per questa gente così di nuova, tanto la sanità non ti aiuta, purtroppo, è uno costretto a spendere. Oh, yeah. E anche mio cognato ha avuto una specie, non so come si chiama, forse un'ischemia facciale o qualcosa del genere. Ma mio problema è un altro, praticamente si è spostato quel gel che abbiamo all'interno dei buchi. Questo gel spostandosi ha lasciato delle impurità che sarebbero quelle cose che io vedo, quelle cose nere, cose. Me l'ha spiegato l'oculista. Queste impurità a furia di muoversi possono causare danni alla retina, nel senso che la possono rompere anche, a furia di muoversi e sbattersi alla retina la possono deteriorare. Quindi cosa succede? Qui adesso devono essere sicuri che sia quello con questo macchinario e poi quello devono bombardare con i laser. Ho capito. Quando siamo messi male, ragazzi, ma com'è possibile? Perché se non riesco a rientrare al lavoro è un casino. Me l'hanno chiesto se rientro, se non rientro, cosa faccio? E gli ho detto che non lo sapevo, se continua così no, non rientro, perché tanto non ce la faccio, è inutile. E rientrare e prendere i fondelli a me e a loro e farmi male da solo. Il prossimo anno posso fare la domanda, e poi vediamo come è la situazione. Dovrei andare a 62 anni, ma posso fare quella anticipata, capito? Ho capito, sì, sì. Adesso non riesco neanche a inchinarmi, se mi metto la risca a fare mi devo inchinare, mettere la merce eccetera, in pescheria devo stare in piedi e quando sto in piedi mi stanco subito perché mi fa male, mi stanco, mi devo sdraiare o coricare perché sennò mi fa un bel male, dopo che mi riposo un po' poi mi posso alzare, però sono sempre così, capito? Sempre riposandomi, anche quando faccio le cose a casa, faccio una cosa, poi mollo, mi siedo, perché non ce la faccio. Non ti posso dare un posto in ufficio, ad esempio, un posto da come direttore del personale, così almeno non devi stare sempre per quelle rente in piedi. Non riesci ad ottenere un posto del genere. Sono tutti occupati in posti, non ce n'è né l'ufficio né il direttore personale, c'è già, quindi avanti il break. Io vieni avanti il break, questo qui è diventato faccioloso e ne ha vergogna, no? Non si presenta già, è vergognoso. Io devo dirti la verità che non ho riconosciuto manco chi era. Non l'hai riconosciuto, almeno mi dà fortuna di riconoscerlo, aspetta un po'. Diciamo che fosse propagazione, sinceramente, o era così, fosse mancata, poi. No, non è propagazione, era uno che poc'anzi era qua e stava parlando e non si è voluto presentare, che si è fatto, perché anche quello avrebbe vergogna, ma è la stessa persona. Prima di entrare qui c'era un'altra persona che stava parlando, avrebbe vergogna, o era alle prime armi, non sapeva cosa dire. Sì. Se c'è cosa che dà fastidio quando uno breca poi non entra oppure mette la portante o fischia e poi non entra, cioè sono tutte cazzate, se vuoi entrare se no stai all'ascolto e basta, tutti questo breco avanti. Io vieni avanti se vuoi venire, se no fate tu e basta, sono cose che non ti interessano, se vieni avanti puoi parlare con lui, se no guarda la porta è chiusa, per cui vai da te avanti. Faccio la voce da straniero. E lui può fare quello che vuole, lui non se la può tenuta. Infatti. Poi stasera non si è sentito nessuno. Io sono entrato così, ho provato e c'è entrato. Perché se no c'era qualcuno che metteva la portante prima, non entrava. Detto, boh, non c'è nessuno. Stavo per spegnermi sinceramente, poi ho sentito a te. Io a computer, anch'io avevo per acceso, quando si è entrato solo avevo per acceso, avevo sentito quest'altra persona che poi non ha, non esce anche qualcuno da fuori, noi siamo trasmettendo. E la propagazione viene là magari, ma è troppo forte per essere da fuori. Adesso se lo prego, basta. Forse ha esaurito i discorsi. Ma poi sta parlando, la cabinetta è in casa sua, ha messo la testa dentro per quello, che ha una voce così di bombante, no? Ma che sta parlando? La parte è di casa sua, o di qualche persuadiano pubblico. Che va, non gli dare retta, basta, non fai finta di nulla, grande ubrecca, non fai finta di non sentire pure. Che non ci posso andare con questi dolori, ma compagno mi posso fare, io sono partito dal mare, già lo sai, mi piace fare pesca subacquea, mi piace fare nuoto, mi piace pescare con la canna, cioè mi piace fare tutte le cose al mare, però purtroppo sono limitato adesso. Io sono anni che non ci vado più al mare, ci prendevamo la casa in affitto, andavamo lo stesso così con la famiglia, però non è quello il problema è che uno il piede che c'ho sempre luce l'aperto e poi il femore che non va, vabbè, pazienza, io sono sempre stato partito e tra l'altro non resisto il caldo, devo stare sempre in acqua al mare, quindi tu immaginati come posso stare io se vado al mare a fare le sabbiature calde e poi non poter entrare in acqua, è una sofferenza. Prima in greppa ci prendevamo il pedalone. una casa in affitto lì a Plattamone, così la stavo a Peffara, quando uscivo dal lavoro andavo direttamente al mare. Tanto uscivo, allora facevo sino alle 7:30, arrivavo lì, erano le 8:15, e mi cambiavo e mi tuffavo subito in acqua, tanto c'era ancora il sole a quell'ora. Di droga è così, però per dire, i miei suoceri sono andati sino a pochi anni fa al mare, andavano lì al Lido della polizia, adesso c'era l'ispettore di polizia, quindi andavano lì al Lido, oppure andavano a secondo pittine lì, andavano da presto, però facevano orari particolari, andavano dalle 8 lì e poi se ne andavano a mezzogiorno perché dicevano che era l'ora migliore. Poi dopo mezzogiorno dice che veniva il sole alto e cose, loro non lo sopportavano, si facevano quell'orario lì dalle 8 a mezzogiorno e poi se ne andavano. Dopo vabbè, sono diventati grandi e non ne volevano sapere manco più loro. Signora Sardinia delante, sono propagato in spagnolo, entra. Non la sento, io dovrei portare questa antenna, dovrei portare e metterla nel posto giusto, hai, dove c'era la turbo prima, ma adesso, ma non aiutava nemmeno per quello, ma che già va bene, tanto non c'è più nessuno per questo, per quattro gatti che ci siamo. Ci arriva. Se c'era la moto fa turbo prima, per capo non l'ho mai tagliato, ma se ci vedete che non l'ho mai tagliato, e anche più anche, ma mi dispiaceva tagliarlo, ho voluto lasciare intero, anche perché stavo pensando, ma se un giorno tiro su qualche altro metro non appena, almeno capo c'è, perché in questo modo, se non ne potrei tagliare, se so io, 2 o 3 mesi penso che ne potrei tagliare, volendo. Proprio facendo il giusto giusto, almeno 2 o 3 mesi voi li potrei anche tagliare, ma non li taglio, lo lascio stare, forse sta male, mi viene l'idea di tirare su ancora il palo e almeno capo che già è un peccato, dai, la caviglia è un peccato per carlo in qualche maniera. Pagavo. Perché infatti, ma poi devi fare un PL, devi rifare un PL, devi fare qualsiasi cosa, ma non ci vuole nulla, mi giuro, cercalo un attimo e te lo fai, ti rende di più l'antenna, almeno ce l'hai come vuoi tu, non penso che ci voglia molto la salire. Vabbè, tutto quanto è avere, dare quel flash di energia che ci vuole per farlo, perché anche io quando devo fare le cose, le tiro alla lunga, poi due secondi ci vogliono a farlo. Ma non è quello, no, il problema non è quello. È che mi dispiace tagliare un cavo, perché quel cavo lì avevo pagato 62 euro e 50 centesimi. Sono 25 metri a 2,50 al metro, e che ti vuoi immaginare? È una cosa, ma dopo siete considerato che non me la fastidio, lo lascio sul tetto, lo lascio così, non è arrotolato, lo metto così, passo per tutto il tetto. Decido di tirare su ancora l'antenna, ancora più su, il cavo c'è già. Tanto cosa me ne frega, anche se cosa guadagno di segnale, e poi non mi interessa, e a me segnale, interessa perché mi sento nel radio, basta quello. E poi nella posizione che era l'antenna, la tubo prima, capita, e la trovo più fluida, penso un po' se non andava bene. E sta alla grande, brutta, veramente. Alla grande già. Però la certo vuol dire quelli è. Tu pensa che non ho nemmeno soldato il piede, quello di dentro, quello dentro casa. Perché? Perché entra talmente preciso dentro il piede, perché il cavo di quello rigido, quello sbloccato, quello centrale, che è rigido. Ed è talmente preciso che non c'è bisogno nemmeno di soldato. Infatti non ho mai soldato il piede interno, quello che c'è dentro la casa maracchina. Ho capito. Io invece con le 25 tu ce l'ho roba di 15 anni, tu mi diceva non serve le 58 qua, là, pupà, e tanto non mi ha mai dato problemi, io c'ho 1,1 di stazionarie, solo vabbè se attacco mi aumentano a 1,2, 1,3 al massimo, però normale ce l'ho 1,1, non si muove nemmeno la lancetta. Fino ancora ho fatto avere una sera, avevo l'RG8, avevo io, che avevo tantissimi anni, l'avevo tolto, avevo, e poi l'ho voluto sostituire, l'RG8 lo stesso era un buonissimo cavo, e poi l'ho regalato a una persona che poi si è manifestato vigliacco e mi sono pentito che gliel'ho dato, ma proprio le faccia, perché ai vigliacchi non bisogna dare nemmeno un bicchiere da qualcosa. Io dico la verità, con le 1258 mi sono sempre trovato bene, ce l'avevo a Sacro Cuore sulla Grand Plain e ci avevo le 1258 normale e mi ha durato un bel di anni lo stesso. Adesso ce l'ho questo qui, per di ricordo, a viaggio 15 anni, minimo 15 anni, se non di più. Non mi ha mai dato problemi, ho cambiato solo il PL perché c'era ossidato e cose, gliel'ho cambiato, però proprio il cavo non c'ha nulla. Certo, no, questa cosa nel primo anno ce l'ho avuto anch'io, quello del 1058, quello buono, quello con la carta ambientata, ce l'ho avuto anch'io tantissimi anni, per cui non è che, ma allora avevo la Grand Prix, però avevo, ma è così. Invece adesso questa antenna autocostruita, questo di fuoco, che poi sono stato anche stupido, quindi pensa che ce l'avevo nuova antenna, io ce l'avevo nuova, originale, la Game Master originale, l'avevo presa da un amico, l'avevo presa. È venuto questo mio nipote, mi ha convinto e gliel'ho data, ma c'è il massimo. E poi me la sono costruita io così. Con la cassetta 55, me la sono costruita, e per farla diventare simile all'originale, poi nella bobina già, quando ho preso una sottolante e ho messo una sottolante rossa, sulla vedi, è sempre la Game Master originale, sembra, invece è quella autocostruita. E vabbè, anche lì sono stato cretino, le ho regalate, ma non solo mettere a tempo, le ho regalate altre cose, anche malattie, eccetera. Le ho regalato, ma comunque io non posso, un ragazzo di 18 anni, non mi frega niente, è a carbonio, però non è a tassa di un ve lo ric- ricordo che me l'avevi accennato, che questo fatto qua, che l'avevi regalato a lui, che c'è la passione, lo stesso del baracchino. Vabbè. Ma Game Master quanto costa? Sulle 200 euro? Ma ci sono le luci che la vedono 160, altre che la vedono anche 180, dipende dalle luci. Diciamo, quella meno costosa ho visto 160, 159 per l'esattezza, dai. E dunque l'originale cosa sia? E appunto per lì. Io l'avevo comprata, l'avevo venduta a Manuco, l'avevo venduta. E ancora ce l'avevo con lì perché avevo sempre lavato da tubo. E là è venuto questo ragazzo, questo mio nipote, l'ha vista e mi ha talmente convinto e io l'ha fatto la vita e caro, casomai già me la compro. E io l'ho regalato. Dice, te la pago, ti pago da pari, vai, cosa fai? Vai dimmi, vai di 8 anni, non vai a scuola, vai, e continua. Adesso studia però, perché se non sto venendo se ne prendo tutto quello che ho dato. Già sto studiando, ecco, va, bravo. No, ma già sta studiando, veramente bravo. E poi, dopo che non torna, la moto va turbo, perché fischiamo una volta, e quando soffiamo un vento, era un tormento. Alle 2-3 del mattino sentivo questa musica di vento, ancora. Ah, questa beh, adesso la voglio costruire. Avevo comprato questa canna fresca, l'ho comprata. E dunque l'ho costruita. E con la H155. E adesso ne sto facendo un'altra. Non ci aiutiate? Ho già comprato la canna fresca, ho già comprato, adesso ho già preparato il tubo per la bobina. E adesso devo comprare il capo per poi continuare. Avanti. Ecco, con chi abbiamo l'onore di parlare. Ciao Antio, ho sentito. Gianni Doppio Room con Giulio Rollaro, vai. Dai, io. Giulio per salutarti, avanti Giulio. Ok. Ciao Antonio. Giulio da questa parte, avanti. Avanti a Greco! Vedi che era di fuori giù. Quello sì, ma non questo che dire, che questo Antonio no, non è da fuori. Basta da fuori. Antonio, dove sei tu? Italy from Sardinia, Italy from Sardinia. Attento Antonio, da dove stai modulando? È della riserva, mi hanno riconosciuto. È della riserva, a voce da battuto, da morto. Ah tu, ma dove da te trattene? Ma che cosa di pure stai usando? Il microfono. Ma era drumito. E sei stanco allora, c'ha la voce stanca. Avanti chi vuole entrare, dentro Sud Spagna, se scucci l'isola della Sardinia, la città del Sassari, mio hermano, avanti, te l'ho comprendito. Tante mio hermano, te scucio mucho bien. Avanti Antonio per l'amico della Spagna. Ciao l'amico spagnolo, ben scucciato. Qual è la tua città, mio hermano, la tua città? Non è buona la propagazione, dai, è scarsa la propagazione. Anche ma cosa stai usando? Come le bue stai usando? Veramente, non sto scherzando. Anche quando sono un po'. Fuori si stai cavalcando, ho capito. Senta, che l'altro giorno non ricordino, l'altro giorno vedo la bella radio, bella pulita. Poi ti vai un trombone va in bocca. D'accordo e fai versione, dai, ti prendi quello che ti serve dalla campagna e la metti a casa. E cosa ti stavo dicendo? No, è una voce placida, non è che sia... È una voce placida, come se fossi stanco. Ho capito, va. E vabbè, è interessante sentirci, no? Quindi sei andato al mare, bagnetto, fatto te la. La secca alla faccia di Galunvu. Ah, è l'acqua fredda era. Stamattina c'era un ventaccio e non so se l'avete sentito, io pensavo che non fosse giornata di mare infatti. Poi si è accalato il vento, e molta gente ne ha approfittato. Attento Perico. Attenzione collega, se ascolti l'isola sarda, è la stazione doppio rum che ti super cordializza, avanti Gambio. Brava qua capo. Era fortissimo anche la vetta. Sì, e beh certo, si è aperta bene in quel momento la propagazione, ma poi è scesa di nuovo e così si è troppa crescenza. C'hai... Oh... Attento Malaga, se ascolti l'isola sarda e la città di Sassari, nord Sardegna, che ti super cordializza, avanti collega di Malaga, se ascolti il doppio rum, cambio. Positivo amico Nicolacera, buonasera, saluto cordiale da qui di Malaga, cambio, cambio, adelante. Ma sono in compagnia di due amicacci, ti passo Giulio, avanti Giulio. Ok, attento collega del Malaga, se ascolti Giulio da Sassari, Sardegna, K. Positivo, positivo amico Giulio, si è scoppiato come una bomba tipo la Spagna. Salutone, salutone cordiale da qui dell'amico Romeo Sesto, qualche Ok, Romeo, ok, molto bene, anche tu arrivi molto forte. Una bomba, una radio bella, chiara, potente, forte, molto bella. Ti mando avanti Antonio, sempre dalla terra sarda, cioè da Sassari, vediamo un po' se l'ascolti. Avanti Antonio, l'amico del Malaga. Sì, salve, buonasera amico di Malaga, ti ascolti qua, Antonio Riserva. Attenzione, attenzione collega, se ascolti doppio room mi puoi dare un controllitto, cambio. Il controllo per te Santiago 7, la radio a bomboletta, avanti. Io vaporetta, mi ho copiato, Santiago, Santiago 9, la radio 5, radio 5, molto forte, Adesso sei passato anche tu a 9, la propagazione è salita. Sei 9 anche tu, dai collega, avanti Giulio. Ok, guarda K anche per me per cortesia, attenzione amico di Malaga, guarda K anche per me, grazie. Per te Santiago 9 a Radio 5 a bomba, come ho detto poc'anzi, vai. Oh, grazie, segnale 9, la radio con l'equipo, la Malaga. Pues nada, saludo y nos copiamos el nuevo. Saludo a tu compañero de mi parte. Saludo, Javier. Chao, chao. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, mi hermano. Una strettona de baletta. Avanti, Antonio. Mi ascolta, a me. Comunque, ti saluto, ben ascoltato, io ti sento benissimo. Ok, ti saluto io allora, Giulio che ti saluta, amico del Malaga. Grazie per il contatto, a risentirci presto, 73, ciao, ciao, grazie. prossima, sperando che la propagazione ti aiuti. Ciao di nuovo, 73 ancora, ciao ciao. Vai Gianni. Ma dai. Ciao collega, ben sentito, dai. 7351 a te tutto QRA famiglia. Buona strada mio hermano. Avanti giù. Ok. Ok già. Hai visto con pezzo di filo? Bisogna di antenna la turbo, c'è. Questa come detto, se io questa l'ho messo al posto dove avevo la parte con tubo. Guardate che stia dicendo delle fesserie, ma sono convinto che rende almeno quanto 90 watt tubo, guarda, ne sono più che convinto. Adesso che apparato stai usando giù? E scappa sempre, no? 25 watt di potenza. Vabbè, ciao, va bene comunque, caspita, poi interessante che ci arrivi, vedi Antonio con la Mantova non lo sentiva, ma forse anche la posizione. Oh, usano 4 watt io, e me li faccio pure. Avanti, chi chiama Gianni doppio room, cambio. Ma certo quello. Vagava, certo che così, ma Giulio ne ha diverse di antenne, solo che ha voluto fare questo dipolo per provare e a quanto pare va molto bene, non è da scartare, dai, l'idea. Va molto bene, con poca spesa, ha una resa di un'antenna 5 ottavi, e quindi, comunque sono in compagnia di Antonio, di Giulio, va per chi vuoi. Ok, Francesco, ti sento, sentiamo 7, radio 5, dai, va bene, Francesco, sì, certo, vai così già, guarda, prendaci qui, non di più, guarda, perché costa, 15,90 la canna. La canna da pesca e poi 8 metri di coso di H155 che costano esattamente 12 euro qualcosa, una cosa del genere, già 13 euro diciamo, l'altra della testa, 12,50 mi sembra, perché a 1,50 il metro. E poi il filo, vabbè, il filo ce l'avevo già, il filo elettrico, quello che si vuole, o quello unipolare, il PL ce l'avevo. E dunque, le staffe, c'era tutto, ecco cosa ho preso io, ho preso la canna da pesca e il cavo, praticamente ho preso 16 più 12,50, quanto fa? Sono 28 euro, così è già, perché il resto avevo tutto, PL ne ho 7-8 ne ho ancora, e ne ho anche professionali, si può immaginare, e poi il tubo ce l'avevo, avevo tutto, ho preso solo la canna da pesca e il cavo, il filo ce l'avevo, il filo, fino da 2,5 avevo messo come finale dell'antenna. È un pezzo di coso avevo preso, adesso che quello me l'ho dimenticato, del cavo grosso, però ce l'avevo già quello, perché ci è voluto il condensatore, l'ho fatto con un pezzo di cavo coso H1000, mentre invece l'impedenza, quella 56 cm e 1 mm, quello lì ho utilizzato un pezzo di H155, lo stesso, che va bene ugualmente, intanto io non devo caricare watt, invece che va bene lo stesso, non c'è problema. Ma tu perché non te lo fai per casa? È una fesseria, spendi poco e c'è un'antenna come si deve. Cosa non c'è senso, non lo so, però se per respirare. Guarda, ho dato un progetto anche a Sardegna, Franco te l'ha costruita e esce molto bene, si è collegato anche con le relazioni straniere, per cui vede bene già, nonostante la posizione, come Franco la purtroppo ha la posizione critica dove l'ha piazzata, se puoi immaginare, non so se tu lo sai, se l'hai mai sentito, ma lui ha la rete frequenza, te lo posso anche dire, come l'ha piazzata, presente c'è la staffa del filo da stendere dai panni, ecco l'ha attaccata con la staffa lì, dunque rasentando il muro, tieni presente che sopra di lui c'è anche un altro appartamento, perché si può immaginare, eppure nonostante tutto rende bene, rende bene. Sono canne fisse o canne allungabili sono giù? Ho una canna da 7 metri che ho preso io, o quella da fiume diciamo, dai, c'è il metallo, non c'è niente, non c'è nessuna metro, niente, niente, niente di niente. La Decathlon, 15,90 €. Adesso la faccio questo da Giulio, guarda. Giulio si fa i soldi, io costruisco antenne giù. Ma tu non pensiamo, non c'è senso. Thank you. strada, guarda, 66 mm. Ho messo del nastro bioadesivo, oh, però la parte dell'esterna ho lasciato una carta lucida che c'era il bioadesivo e ho avvolto la bobina su con quello. Con carico, ho misurato, quando sono arrivato a 66 mm, tieni presente che il tubo in partenza è 63, dunque ci ho messo questo bioadesivo largo da 4 cm più o meno. Attorno, fin quando non ho raggiunto lo spessore di diametro di 66 mm. E lì ci ho costruito la bobina, è ciccia. E poi l'ho anche truccata la bobina, perché ci ho messo il nastro rosso per sembrare la Game Master originale. E un spulbuio, no? Invece con H155 ce l'ho fatta. Qualcuno c'era qualche anno fa, poi quando l'ho scavato non glielo ho detto, ti ho preso, allora ho fatto il dispettoso, buffone. Ma quando mai uno si deve vantare una cosa che l'hai inventata? Ma cosa hai inventato tu? Tu ma chi mi puoi in capo invitato? Cosa non avreste fatto tutta la figura a dire? No, l'ho visto al computer, ne ho ricavato il progetto e non lo so costruito, cos'è? Ingegnere sì, attendista. E uno mi ha appassionato e basta. Hai visto un progetto, mi hai copiato, così ho fatto io. Ma almeno lo dico che l'ho visto, l'ho copiato. Allora qualcuno che voleva vendersene pure, e qualcuno, più di una se ne ha venduto, e poi non sono nemmeno riuscito, tra l'altro. Già, ne riprende. Vagava. E io già ho capito chi sta dicendo, ma non ci metto lingua. Andare. Ma Giulio, tu quelle antenne lì, il filo elettrico le lo fai passare internamente oppure esternamente? Io l'ho fatto passare internamente, però la parte finale dell'antenna, della canna a pesca, siccome è troppo sottile, allora Giulio Murito me l'ha dato un altro pezzo, lui già lo sai, è pescatore, no? Ci va sempre, e me l'ha dato un pezzo, e io ho inserito una punta, l'ho inserita più larga, l'ho inserita in modo che passasse il filo, perché se no sarebbe dovuto comprare una canna da 8 metri, ma da 8 metri non c'era, era da 7 metri, giusto e giusto, siccome l'antenna totale è 6,90 metri totale, capito, come altezza di coso, di tiro centrale, parlo di tiro centrale, più una bobina e più un troncone dove si attacca poi al palo, quello sì. Lì c'è un pezzo di tubo in alluminio che io ce l'avevo già, tra l'altro, in falegnameria, e ho utilizzato quello. Ecco, devi stare solo attento a questo, non devi mettere metallo più su del PL, perché poi c'è il PL sotto, attaccata la bobina, no? Dal PL in giù, il metallo non gli fa niente, perché la bobina riesce a copiare perfettamente, cioè a disaccoppiarlo dal palo, dal ferro. Se invece ci metti del ferro all'interno, anche un pezzettino all'interno della bobina, non va più bene. Infatti la canna da pesca deve essere una canna che deve essere veramente di vetro, non che sia di quella al carbonio, perché al carbonio non va bene perché contiene metallo. Ecco come Gianni. Poi attira i fulmini. Infatti quando piove quello al carbonio non bisogna usarle, bisogna usare quelle vetrorigida. Avanti Antoine. Pensiamo a un amico in tutta la Sardegna. Poi ieri mi sento andare molto lontano, perché ieri c'era uno che stava, anche lui si era autocostruita, parlando ieri sera di propagazione. C'era uno da Ragusa, perché l'ha detto lui, sto uscendo, dice, con un'antenna autocostruita, tipo Game Master, anche lui ce l'aveva costruita. Perché ti posso garantire che funzionano bene o già. Dai, sennò... Beh, lo vediamo, no? E magari, cosa voglio dirti? Ci vuole un po' di tempo per farle, bisogna pentarsi. Uno che è proprio profano, io non ne ho mai costruito, dai, però se mi metto... netto lo faccio anch'io, non c'è problema. Basta che controlli le misure, cosa ci vuole? Certo che uno che ha pezzi in più, che ha pezzi di carne in più, può renderla più forte, eccetera, eccetera, può... come hai fatto tu, ti hai preso un pezzo di canna dell'altro più grossa, eccetera, eccetera. Ma c'è gente che il filo, il cavo, lo fa passare anche fuori, lo attorcigli e poi praticamente lo copre col cavo l'adesivo vulcanizzante, tipo come se fosse un'antenna caricata. Ma io per isolare e dopo ho fatto questa andatura, perché mi ha andato, dove si attacca differenza? Differenza è un pezzo di cavo da 56 centimetri e 1 millimetro, che va poi tra l'altro corta circuitata alla fine. Poi su ce n'è un pezzo da 9 centimetri, 9 picofarad praticamente, perché il cavo ha praticamente 100 picofarad a metro, perché un pezzo da 10 centimetri sono 10 picofarad, 9 picofarad più o meno, dai. Dunque va bene così. Quando non va corta circuitato, ci ho messo io il tubo termo restringente, ci ho messo con la chiuma a capelli, l'ho scattato e si restringe da solo. Ne avevo qualche pezzettino, forse ne ancora, non me lo ricordo bene, forse qualcuno ce l'ho, però mi sembra che ho quello troppo sottile, che non va più bene. Ma io già avevo quello grosso, anziché mettere il nastro isolante, ho messo il tubo, tu lo infili, lo metti dove ci sono i contatti, già scarmi con la chiuma a capelli e ti si restringe, perché al caldo non si restringe e te lo si sigla proprio, non passa più l'acqua e non passa niente. Però stavi dicendo bene su poc'anzi, si può mettere il filo, la bobina, cioè il cavo, lo puoi mettere anche all'esterno della canna, fissato magari ogni 20-30 cm con l'altro volante, capito? Lo tiri bene, lo tiri e fissi ogni 20-30 cm, fino ad arrivare su in alto, in cima. Tutto lì, vabbè, funziona ugualmente, non cambia niente, io già. Ma già è più riparato all'interno, dai, per intempiri da tutti più riparato. Chi c'è? Chi deve prendere il mic adesso, che non mi ricordo? Antonio, sì. Sto parlando di scanno, io sono un po' così. Appunto, perché è una stupida. O tu, Antonio, già mette anche, sei già del settore, si può dire. Il mestiere, hermano, cosa ti prego, cosa ti vuoi fare una cosa del genere? 16 giri di bobina e poi 3,45 dalla base fino al centro dell'antenna. E poi anche 3,45 di filo unipolare, quindi anche da 2,5, anche da 1,5 va bene, ma se poi lo puoi mettere più grosso va bene lo stesso, io l'ho messo da 2,5, da 2 mm quadrati, perché andando pure tra l'altro anche un pezzo di cavo verde giallo, quello filo di terra ho usato, ma non è importante questo, va benissimo. Condensatore 9 cm di cosa ci puoi mettere di 213 oppure un altro cavo tipo H1000 oppure un RG8, insomma questo è l'altro differenza per usare anche il 155, problemi non me ne so, quello vuole lungo 56 cm. E invece positivo tutti e tre insieme, perché lo metti a 100 dalla parte centrale dell'antenna, vuole 126, mi sembra, ma non me lo metto bene la misura. Tagli, colleghi i tre positivi insieme e la carta insieme, isoli, che non si tocchino, il pezzo da 56 cm, poi la parte rimanente alla punta va corta e circuitata, carta e bloccando, ecco, tutto qua. Su in alto invece, alla fine del cavo coassiale ci va quest'altro pezzo di cavo RG13 o H1000, come vuoi tu, vabbè, anche lo stesso, anche H155 va bene lo stesso, intanto non dobbiamo mettere i lineari, noi non ce lo frega niente, e quello lì va messo. Polo positivo di questo pezzo di cavo da 9 cm con polo positivo coassiale che sta laggiù, no? Mentre invece poi il filo va attaccato alla calza di questo condensatore, e cioè di questo pezzo di cavo da 9 cm. Quello non va contro il circuitato, non va contro il circuitato. È finita l'antenna, mi sembra che abbia fatto 23-32 e finita l'antenna. Sì, l'ho visto il progetto, avevo già iniziato a costruire la parte e la carica l'ho già fatta, anche tu l'ho sorpreso. Appunto, ma una cosa ci vuole, se te lo sto dicendo, aspetta, no? Io, tu pensa che a Franco gli ho detto, mi ascolta fra, scrivi già stasera, queste pesate parole le avevo letto, poi ha aperto il computer, che l'ha pregata, dopo 2 giorni mi ha detto, però ho fatto l'antenna, prova, poi è benissimo, a meraviglia, te lo credo. L'avete provato 20 anni fa, 30 anni. Appunto, queste antenne le faceva e le fa sempre questo, Francesco Luna Rossa, credo che sia di Lecce, una cosa del genere, e lui fa queste cose qua, e le ha sperimentate tante volte, ma non le fanno lui, le fanno altre persone, un certo Alfredo, poi c'è quest'altro, mi sembra Paolo, anche lui, perché ci sono diversi progetti, ci sono in rete, si tratta solamente di guardare il computer, ma uno guarda l'altro, mi sono tutto fatto, perché non va bene. Guardi Gianni, adesso ti ho convinto che la fai anche tu. Gianni. Gianni, sei rimanzato. Gianni, lo sai. Attenzione, dottor Russo. Attenzione, dottor Russo. quello è il telefono adesso, Oh, già me ne avevo una tempesta di quello, autocostruito qua. Non uscito, non è più a balla. Ma mi chiede mai, non so, ma la presa non funziona. Che montata di porca e sta, con cose. Già lo so, già lo so che l'avevo fatta, ma non è solo quella che non ha funzionato, anche un'altra da un paese qui vicino, anche lo stesso, la piazzata della cavata subito, poi lui mi aspetta a perdere. Infatti, dico io, aspetta a perdere, quando poi una ancora a caere un'antenna si fanno la bomba la testa almeno funziona certo, quello genere, ma è più che altro il busto di costruirla, io non è che io ce l'ho sempre la matematubo c'è per quello, no, che ce l'ho contata e lo stilo centrale quando è ancora piazzato tutto intero, ma è collegato per terra nel fogliolo su imbastata perché è lungo, quello è lungo 7 metri, ma il fogliolo mio fa 8,50 m per lato, e che abbuglia se ci sta. Mentre tutto questo lo dentro casa, tutta bella impacchettata, continuata bene, nuovo, ma andavo dopo di nuova, un pacco di lira costava 145 euro, se puoi immaginare. Adesso non è da costanza, solo che la facciamo con faccio, è che ne volevo mettere una in campagna di Gabbato, solo che non riesco a trovare lo stilo di più, pure l'avevo smontata in campagna, l'avevo lasciata lì, ma non ho confesso, non riesco a trovare la sua parte. Ok, sì, invece, se manca il pezzo lo richiamo, secondo che se è un radiale non è un problema, se è un radiale già porta bene. Ma se si tratta di un altro pezzo, che so io, della base, eccetera, e allora, insomma, uno o se lo costruisce e se lo fa. Io potrei anche disfarmi della chiama quello che c'è al cimino. Ah, capito, dello stile centrale. Stai parlando dello stile centrale tu. Vedi, io ce l'ho ancora, c'è anche quella sedra lì, perché poi tra l'altro è di plastica quella, che serve per la corrente elettrostatica, sempre quella. C'è anche quella nella sedra lì, sempre, sempre attaccata. A differenza di tutte le altre, perché ho visto che ci sono tutti i rotti in quelle cose lì. Nella mia c'è sempre, guarda, con le fughe in quinto lì. Perché sì, quinta lì è plastica, a me mi manca l'elemento sotto quello. Ah, non ho capito, ho capito. Certo, allora, non lo so, bisognerebbe trovare la sezione giusta per poterla recuperare. Non so se si trova, perlomeno piazzata. E comunque ho visto che Bricomen già ne ha di cose, di... Solo che vogliono lunghi, 1,90 m mi sembra che sono, ogni stilo è 1,92 m, una cosa così, 1,90 m. Ma se ci sono da 2 metri, se trovi la stazione puoi sempre recuperarla. E non costano molto, costano una fesseria costano questi tubi così d'alluminio. Non sarà lo stesso alluminio, ma suppongo che vada bene lo stesso. Sono rientrato, ho avuto necessità di andare in bagno. Sta dentro, la testa. Capra gara. Dai, adesso sono quello... Già che sei troppo forte. Mamma mia, questa è la camionista. Camionista sarei tu. Ma la metti per senso, un camionista. No, ce l'hai, ecco, è un piccolo manco di microfono questo qua. Se vuoi tolgo con il microfono e metto pure il baracchino, non c'è problema. C'ho anche la riserva. Oh, uno mi dice di abbassare, l'altro mi dice di andare perché basta, io non so più cosa fare. Ma tu non lo so. Adesso quello va bene, dai. Non lo so, ma sono altissima. Togli l'eco, tutto l'eco togli. Guarda così. Lascia fare così, guarda. A tutto questo. No, è perché tutto il radio è allucinante. Tu invece è più fantastico, più classico. Io ce l'ho uno, il microfono, ti puoi immaginare. Il microfono ce l'ho uno. Sì, già, perché quando metti l'eco in quella cadenza lì diventa troppo quasi incomprensibile perché è forte, fortissimo. Invece tu, anche il volume, non lo mettere molto alto, mettilo a metà, mettilo. Io ce l'ho uguale col microfono, già lo sai. E dunque so che vuole è regolato così. Però non è questo cosa adesso, questa è una. Ma per dire. Se vuoi anche fastidioso, la verità, forte quanto vuoi, magari fuori in continente si sentono anche bene, ma a distanza così lunga, sì, ma così vicino come siamo noi, no? Diventa fastidiosa. Boh, lui non ha mai detto niente, adesso mi stavo dicendo tutti che è troppo alta, non capisco, forse come ho cambiato la batteria della tua. Adesso guarda, ascolta già, ti volevo chiedere una cosa. Quello della fine c'è il tubo, quello che ha la manopola centrale, che ha preso il pensiero per quell'ora, allora si chiama Cobra. Che ha la manopola, sì, Cobra, sì. Quello che modello è? Non me lo ricordo il modello, comunque è un Cobra, costa sulle 170 euro. Nuovo, esatto. Ma quello è... È un orologato cieco, però non te lo consiglio anche tu, perché di radio mi hanno sempre detto che è bellissimo come apparecchio, a meno che si trovi un microfono amplificato da abbinare. Mi hanno detto che esce troppo basso di radio. Io qua al computer gli ho ordinato uno, è arrivato e adesso devo ancora sballare. Ne ho un piccolo, anche in stazione, ne ho due. No, quello lì te lo posso anche far sentire se lo vuoi sentire, però a me mi hanno sempre detto che la radio non è bella, che questo è quell'altro, quindi non l'ho più usato, mi ha un po' per sentirti di cobra. Se vuoi te lo faccio sentire, anche non mi costa nulla attaccarlo, te lo faccio sentire, aspetta. Aspetta che prendo, benissimo, veramente. La radio è forte, chiara, bella, limpida, limpida e splendente. Per cui, vedi un po', con 160 euro ti puoi comprare il, aspetta come si chiama, non me lo ricordo, ce l'ha comprato anche quello di Ussi, Antonello di Ussi, ma una radio favolosa. Intanto il baracchino a 30 watt, mi sembra, o 40 watt anche di potenza, regolabile, prima di tutto. E poi ha tante, tante altre cose, anche l'eco ha, anche il bip, tutto ha. Insomma, è completo. Si chiama Anitone, lo fa la Superstar. Anitone 6600, o no, 6900, non mi ricordo se 6900 o 690N. E funziona che è una meraviglia, guarda. Costano poco, 160 euro, costa 164 per l'esattezza, dai. E funziona che è una meraviglia, senza bisogno di andare in 2300 euro per comprare un barattino così, così costoso, soprattutto considerando le persone che ci sono rimaste per questo. Questo è il Cobra, cambio. Ehi? Cobra 29 LX, il tuo modello è? Quello lì è. Cobra, ma stai uscendo male? Tutti mi dicono che è brutta la radio, non so che cosa. Adesso io c'ho il microfono, le ho messo il microfono amplificato che ho dato anche a te. Togli sempre l'eco, Gianni, parla sentire senza l'eco. Hola. Togli l'eco. Senza l'eco, per sentire la qualità della radio, la vedi, fa sentire sempre senza l'eco. Poi l'eco è a piacimento, poi è tutto l'altro di suo. Poi è una correzione. Però la radio deve essere fatta ascoltare senza l'eco, perché se no è fasulla, perché c'è quello che mi piace con l'eco e c'è quello che mi piace naturale. Prova Gianni senza l'eco. Così c'è l'eco, perché? Così non c'è, così va bene, è un po' grossa come modulazione, non è, è come quella che ha detto poc'anzi, però va benissimo. Mi dicono tutti che è cupa, che qua, che là, non so chi è cupa. Sì, è un po' chiusa, non è come quell'altra, è proprio le parole non scandisce proprio chiare, diciamo con quella brillantezza dell'altro microfono che avevi prima. Però deve considerare Gianni che la gente magari è abituata ad ascoltarti con quell'altra radio e quando ti sentono con quella ti dicono che non va bene, invece in realtà va bene, solo che si tratta di capire che una radio ha un discorso, ma un'altra radio ne ha un altro di discorso da fare. Ecco qual è la situazione Gianni. Ecco, a voi, Giulio. Cavali misericordia, non fa caridaia. Io ripeto, a chi piace, vabbè, rispetto i gusti di tutti, per carità, ci mancherebbe altro. Però vabbè, ecco, la verità si dica, non mi va molto a genio. A meno che uno non avesse perduto una puntina, ma proprio poco. Che potrebbe anche starci. Ma quando comincia a essere troppo ripetitivo, no, non mi piace proprio battuta. Ma adesso l'ho fatta apposta, così va bene, no? Così va bene, io ti sento bene, la verità è di via. Io ti sento bene, al tuo, figurati. Beh, io mi sono accorto di una cosa, che dandoli appena appena di eco la voce rimane più limpida, invece chiudendoli l'eco rimane più cupa. Ma sono via lì. Comunque sì, vedi certo la formulazione classica. Comunque il discorso è fattibile con la correzione, è fattibile con cambiando il microfono, mettendo un microfono preamplificato, va bene, soprattutto con l'MP5 che hai tuni, con quello te lo puoi regolare a piacimento, pure. proprio i tuoni perlomeno. Ecco come uno qualunque quello a parlare un po' più da lontano dal microfono. Vediamo un po' se si chiarisce ancora. Sì, sì, le vuoi vedere se la prudente. Devo dire che forse un leggero cambiamento c'è. Ma io sto parlando ripeto, questo dopo lo ricordate col baracchino. Non c'è bisogno di appoggiarlo vicino alla bocca proprio. Poi si può parlare anche a 30 cm tranquillamente e anche a 40. Perché riceve, come fa Marco? Marco o Condor? Lui parla da lontano. Eppure la radio di Marco è bellissima. E poi se dipende dalla timbrica della voce è un altro discorso. Però io ho visto che Marco la utilizza da lontano, da almeno 30-40 cm, anche, forse anche di più, e la radio la scandisce bene, proprio bella, chiara. Secondo me mettendo un buon microfono qua va bene come radio, non ci sono problemi. Comunque adesso va bene, com'è come segnale Giulio? Aspetta che mi alzo per guardare, perché io sono sdraiato, il microfono io ce l'ho tutta la lunghezza del braccio, aspetta che guardo, dove sono? I cannocchiali devo mettere, aspetta, così ce l'ho preciso al millesimo. Dai! Dai, lascia stare, non ti disturbare, dai, se non sapevo che dico, se no non ti avrei detto nulla. Dai, adesso che ci sei, dammelo. Centratissimo, 9 più 20, centratissimo. Cava. Va bene, allora dai. Adesso lo uso un pochettino questo qua, perché sono da tanto che non lo uso. Addirittura me lo volevo vendere e poi, non lo so, magari uno con un'altra voce lo rende diverso, non lo so. E anche la timbrica molte volte che non si adegua l'apparato. Comunque se lo vuoi vendere fammelo sapere. 9 più 10 per te, o altro, 9 più 10 per te. Ciao Gianni, non perché te lo devi vendere? Sai come ti dico io, guardami, fatti uno stressone, senza toccare il microfono, lo finotto, ti fai uno stressone, era lungo, e usi il Sanelta lì. Sono sicuro che sarà perfetto, alla grande, perché Sanelta ha i tuoni alti. Che non sai cos'è, che nei ripiani non ci stava, se no non avrei venduto anche le baby più 5, ce l'avevo nuovo, l'ho venduto Antonio, già lo sa lui com'era, era ancora in scatola, con spuntino e tutto qua, non l'ho usato perché non ci stava, se no l'avrei collegato quello lì, capito? Ma non ci stava, e tutto è quello. Vabbè, attenta a quello. Quando lo usi lo tieni appoggiato, che sono io, sul comodino. Io in questo momento ho il tavolino vicino al comodino. E il microfono è sul comodino, perché nel tavolino non si sta, per dire, no? E così mi viene anche bene, perché sdraiato nel letto, allungo tutto il braccio e parlo da lontano. Parlo. Sicché vedi bene che funziona alla grande. E tu anche tu fai così, che te lo metti su, quando devi parlare te lo metti sul tavolino, sul comodino, e poi te lo usi da lungo, usi lo stressore per allungare il microfono, senza toccare lo spinotto suo originale, lo lasci com'è, così lo puoi utilizzare negli altri baracchini anche, no? E sono convinto che la modulazione sarà perfetta, perché la timbrica più chiusa per modo di dire, tra l'altro, che poi è abbastanza aperta ugualmente, e dipende dalla radio, non dal microfono, è dalla radio. Se invece ci metti quel microfono lì con quella radio, sono sicuro che si chiarisce molto di più la voce. Matteo, se ascolti l'isola della Sardegna, città di Sassari, che chiama Gambio. Qua dovrebbe essere sempre, deve essere. Hai ragione, sì. Pensavo che fosse un po' sacco. E vabbè, dai, comunque. A tu quanto mi dai? Aiuto. No, non è fatto. Io c'ho un altro apparato da mettere lì. Chiamalo questo. Intanto lo so che all'altro microfono lì non ci sta, e a me non mi piace mettere i volanti, quindi c'è un altro apparato da mettere lì sotto, capito? Guarda, io ho la 35, quindi vendita, bella andata. Hola, hola. Giulio, ci sei? Sì, che ci sono. Ebbene, come ti è andata la nostra compravendita? Bene andata. No. No, non abbiamo concluso ancora. Dobbiamo trattare. Sì, certo, cosa dovete fare? Stanno taglio dovete andare a fare il giudizio. Allora se ne è subito innamorato, come l'ha visto a casa con l'apparecchio. È una bella radio quella, Gianni, è bella, ma anche la modulazione è bella, dai. E poi naturalmente ci sa, ci sono anche dei pareri contrastanti perché magari a uno non le piace, ci può essere anche quello, ma secondo me va bene anche molto bene in radio, per cui no, non capisco che cosa ci deve vedere uno o sentire da un baracchino, da un semplice baracchino. Poi c'ha tante cose, si cambia il colore del display, diventa viola, azzurro, rosso, giallo, ocra, di tanti colori, come lo volumenti, capito? Beh certo, la classica modulazione del microfono normale, ecco com'è la questione, Gianni. Dunque, però è bella, è forte la modulazione, è abbastanza comprensibile, dunque non... Certo, non puoi paragonare un microfono preamplificato, ovvio, ma ripeto, se tu ci apri il saletta lì, oppure un altro microfono sempre amplificato, possibilmente che abbia i toni alti, e sono convintissimo che esce a meraviglia quel baracchino lì. Bene, sono parlato. Eccomi qua! Cambio cambio! Cosa sei di te, ciccione? Cosa? Cosa sei andato te, ciccione? Ah, signore, signore! Ecco, a voi, Antonio Riserva! Adesso se fanno lui se ne componi, sparisci la voce. Vai, guarda come dice, sono più basso. Sì, più basso però. Sì, più chiaro, sì, più tu. Cava, dai. Vabbè, perché quando la tieni così è più forte, però guarda questa distanza qua, come va? A me va bene adesso, è buona, non è... Non è come l'altra, però è buona. Cava. No, è un bel apparato anche. Si possono cambiare i display, i colori, tutto quanto. Un bel apparato. Io come l'ho visto me l'ho preso, mi è piaciuto, però poi mi hanno un po' deluso perché mi hanno dato delle cose negative. Brutta la radio, impastata, tutta quanta. Mi hanno detto un sacco di roba, quindi non l'ho più acceso, l'ho acceso per provare, detto non l'ho più acceso. Capito, no, sì, lo conosco come apparecchio, anche addirittura questa ragazza ce l'ha anche espanso, il tuo è espanso il canale. Come, non ho capito. Ho detto, questa ragazza che ti ho detto di ce l'ha, ce l'ha anche con la modifica del canale, il tuo ce l'ha. No, la modifica, il mio è proprio originale, è da omologazione. Praticamente ha i canali suoi normali, c'ha MFM e in più c'ha praticamente diciamo il marchio CE, capito? Proprio per usarlo tranquillamente. Sì, lo so che nasce omologato, però cioè, la modifica da fare se lo vuoi portare a 400 canali. Non ho fatto nessuna modifica io, non sapevo manco che si potesse fare la verità, però niente, magari non lo so, se di tu. Sì, la fanno, c'è quanto euro dice che costa, lì se la fa passare da dove l'acquistare. No, io non ho fatto nessuna modifica, è proprio originale come dalla casa, omologato, tranquillo e pacifico. Omologato, Giulio? Con il telefono! Allora, prendo la pantera. La devo fare tu. Con il telefono comunque. Ehi, vai tu, questo Giulio. Ti devo chiedere, la settimana fa, non c'è ancora un giro. No, assolutamente. Fra qualche giorno te la faccio anche sentire. Vedrai. Ce l'ho in bottega e abbiamo iniziato e ce l'ho in bottega. Aio, muoviti così ne fai anche per me, dai, tanto c'è pensione tu, ne hai tempo. No, te la devi autocostruire tu da solo, te la devi fare tu, io fare come pensione. Tutti in pensione, già. Dovete dire che voi siete tutti in pensione. Gianni tra poco fa in pensione, Claudio in pensione, Silvia in pensione, che pensione siete? Ma Gianni, tu fai qua. Gianni, attenzione, dopo il run. Sì, stavo provando a mettere il microfono, questo amplificato sulla lancora, cioè mettere quello della lancora 48 in questo qua. Però non ci sono riuscito a smollare la ghiera, perché è troppo stretta. Aspetta. Attenzione, binario 10, cambio. Adesso con lei è l'esca. Potrei ascoltare merda. Ma tu? Sono qua. Ma non va bene l'attacco, là. È diverso, è fatto diversamente. Ma la connessione? Sì, la connessione. Perciò là la 48 plus, ti può interessare? Là la 48 plus, no, ce l'ho anch'io quello lì. Che microfono ci hai messo? Quello della Rosa G, quello con un pizzo, non mi ricordo come si chiama. Quello con cosa giallo, gialla. Ah, mamma mia. A me quello non piace. Sembra un giocattolo. È un giocattolo. È un giocattolo. Però è quello che si attacca di più. Io diciamo che l'ho provato quel microfono lì, non mi piacia, solo l'estetica, l'ho subito smontato, ho preso la vernice per la pratica e ho fatto quel tasto nero, perché non mi piaceva già. No, ma adesso questo perché sono arrivato per una precedente. Passa appena tu che stai impastando la radio, è molto qua, se è troppo alta non riesco a capire. Sì, va bene. Cosa stai usando con il microfono? Ma se la fai troppo alta la radio, o la avvicini troppo alla bocca, prova a alzare la radio allontanando dalla bocca. No, è uguale, ho provato, se per caso vi ha fatto si alza la sonda, però per le palle. La capsula diversa bisogna mettere per provare anche qua. Lo so, ma questo qui, questa parte che ho qua, sono un campanone, non è che mi vuole vicino. Quindi lui ha fatto il microfono, me l'ha regalato per la garanzia, per le sembra ufficiali, e poi la dice, che usa un po'. E comunque quello là è stato anche toccato, ci hanno fatto i canali, è stato aperto. Ma tu l'hai visto quello là? No, se l'ha fatto avviare già così, quando l'ha comprato mi ha detto, ti ha chiesto se fosse nel canale, sai tutti gli apparecchi digitali, no? Basta fare un ponticello in base al paese di vendita, no? E lui gli è arrivato già così, c'è un ponticello che fanno nella Etro, ma gli è arrivato così, e mi ha detto, dice io, dice il Jackson, dice lo preferisco perché dice come fatto c'è meglio, ma ha detto, dice tutto qui è così, e ha detto Jackson sicuramente meglio. Come va? Questo qua va bene, va bene. Cioè, non, i segnali me li hanno sempre dati buoni, come va? Se la radio dicono che buffa, che buffa, non piace la radio, va? Ti capisco. No, lui se ne ha parlato di radio, ne ha parlato precisamente, mi ha detto, guarda, dice, no, la parecchia è nuovo, c'è la scatola, c'è la scarpa, c'è... E mi ha detto, non ha un grazie, dice, è nuovo. Però dice, io preferisco il Giappone, è stato chiaro. Vabbè, se è così, dai. Cosa ti stavo dicendo? Non si tratta, secondo me, dell'apparecchio, si tratta del microfono, di trovare un abbinamento con un bel microfono. Capito? Magari trovando un abbinamento con un bel microfono va anche bene. Lo so già, però devo conoscere qualcuno. qualcuno che ti prenda alcuni microfoni per poterli premiare, ma io mi sono comprare 10 microfoni forse. Ma è quello che ti sì, vabbè. Certo. Yeah. pensato io, ci sono i film dall'interno. Ma se lo apri stai molto attento, perché ci sono i fili finissimi, si staccano subito. Sono l'unico problema che c'è con il controllo, che c'è i fili finissimi. Bene, bene. Sì, poi c'è. La devi regolare tu dentro, anche quello è importante, bisogna regolarla, perché se lo alzi troppo di radio magari si occupa. E quello, bisogna regolarla anche dentro. No, la radio non l'ho toccata, solo il trimmer che ha questo microfono, anche se il tuo baracchino non ha il parlascolta, ti fa sentire col parlascolta, capito? Ah sì, ho capito. Vabbè, comunque, già, ma ripeto, recuperabilissimo, basta cambiare il microfono, è recuperabilissimo, guarda. Ne sono più che sicuro. Metti circa destra lì e vedrai che ti esce una radio spettacolare. Bene, si ha detto, vabbè. Però ce l'ho attaccata al garage di al garage, sì, quindi non voglio stare ogni volta svitando la ghiera, facendo. Io ho un microfono per ogni apparato, un alimentatore per ogni apparato, quindi non devo stare a spostare nulla, accendo e basta, capito? Vabbè, d'accordo, ma se quello tu vuoi utilizzare sarà avere un orario migliore, con lo quale basta mettere la prolunghezza, non devi toccare, il microfono non devi toccare, ma come lo stiratore del microfono, tu non lo tocchi assolutamente, ti fai il collegamento con una prolunghezza, dal baracchino al microfono, e cioè al filo del microfono, senza toccare quello, tu puoi il microfono, puoi utilizzare in qualsiasi baracchino, non ci vuole niente, cosa ci vuole a collegare una prolunghezza, è una stupidaggine. Aspetta un attimo che provo in diretta a vedere se va bene, provo a metterlo direttamente. Ok. Attenzione Giulio, se mi stai ascoltando, cambio, 1, 2, 3, prova, guarda questo qui è con saletta. Sì, che ti sta ascoltando Gianni, a voi, va benissimo. Devo tenere tutti i volumi a metà, non so come sia di radio, se è alta, bassa, aspetta, ora provo a vedere fin dove posso andare, così sto alzando, guarda. 2, 3, prova. Va bene, anche così va benissimo già. Prova ancora se vuoi alzare, vediamo un po' se tu poi lo sentirai se quando vieni a innescare eventualmente. Allora in quel caso devi fare così, devi abbassare il mic gain un pochino della radio e magari aumentare un po' quello del microfono, se per caso si dovesse innescare. L'ho già fatto Giulio. Guarda, 1, 2, 3, prova. 3, guarda, ecco, così, adesso provo a alzare, vediamo un po' che riesco, forse sono troppo vicino alla parata, aspetta che forse è troppo alto qua, ecco, così dovrebbe andare meglio. Allora, il mic gain è questo qua, 1, 2, 3, ecco, così lo posso sentire, aspetta, 1, 2, 3, Ola, 1, 2, 3, prova, guarda, ola, ola, 1, 2, 3, prende scala, perché è troppo vicino. Comunque la radio come ha migliorato, aspetta che abbasso, ha migliorato la radio, è più chiara? Sì, la radio è più chiara, aspetta che ti lecca, perché c'è il parlascolta in quel baracchino? Probabilmente allontanandolo ancora di più il microfono dalla radio magari riesci a evitare, sono sicuro che è così, in quel caso di allora la prolunga per il microfono scappa. Guarda, adesso io l'ho allontanato e dovrebbe andare meglio. molto meglio qua adesso. Proprio non ti ha dato anche qualche pochino, se riesci, se è possibile. E funzionerà ancora meglio. Guarda che abbiamo centrato il problema. E è per quello, perché è col baracchino che ha il fallo ascolta. Allora fa innesca per quello. Cioè, succede l'effetto Larsen, si chiama. Aspetta, ecco. Ma chi che non deve abbassare il frutto, dovevo se il frutto abbassare. E comunque posso alzarlo ancora quanto voglio con l'altro microfono. Ora, interessante che abbia capito che si può usare anche questo qua. Con le dovute regolazioni si può usare. Sì, ma quello è il problema già, è la vicinanza, perché c'è il fallo ascolta in quella radio lì. Ecco qual è il discorso. E allora il microfono innesta per quel motivo lì. Scusa che c'è il telefono. Hola, già me, devo chiudere, dai. Quando chiamato devo scendere giù. Ci sentiamo, va. Sono già le 8:10 comunque. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, stasera ci siamo divertiti un pochino. Alle prossime. Ciao già, a domani, ciao coincide, ciao. Ciao, ciao.